tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili. È tutto ostile in tempi freddi mio avvenire, l'odore dotto in polvere nessuno può capire, perché sono a due passi da loro eppure non mi vedono, il più delle volte che fine ho fatto chiedono, e forse sono io che sono troppo tragico, rinchiuso in me stesso perché mente ho troppe strage, so di essere sbagliato e fuori luogo, ma non posso fingere, tengo tutto dentro fino a quando esplodo. Ad ogni modo oggi vivo in tempi ostili come fosse stato sempre solo, e non aspetto che mi arrivi la sfortuna addosso, come sempre o le corro incontro o resto ben nascosto, mentre tutto passa ma non passa veramente niente, ciò che è stato lascia il segno e è un peso che si sente. Io me ne sto nel buio, la mia stella non splende, non c'era alcun dubbio che potesse accendersi di nuovo, se non di luce scura, se non avrei paura salterei con me nel vuoto. Non cado al suolo, io rimbalzo sopra tempi ostili, creo ritmi che cavalco le corse sfrenate sull'asfalto, o quando ballano sul palco e neanche sanno dove stanno andando. E io di certo sono un tipo complicato, vivo insoddisfatto e non dimenticherò il male che mi hai fatto, rendendo questi freddi tempi gelidi ancora più tristi e spenti. Adesso chiediti perché non trovo pace né motivazioni per andare avanti, se la risposta è in una falce con il mantello nero, lo renda meretrice, ora lavora pure lei per l'impero. Tempi ostili in tempi freddi ostili, ti perdi nei tuoi stupidi giri di parole, ma non sai per cosa vivi, se davvero respiri e se domani ci arrivi farai altri tentativi di trovare il tuo spazio in questo brutto posto, di piegare le persone al tuo pensiero ad ogni costo. È un gioco che conosco e conosco anche il finale, un giorno torna indietro il male, ciò che mi rende ostile invade la tua messa in scena, insieme al perbenismo cade, resta a terra e non si può rialzare, prega. Tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, sono tempi freddi di ostilità tra le genti, senti l'avidità in tanti sentimenti ingenti, movimenti di denaro fanno ormai da faro nell'oscuro caos raro che oramai sogniamo. Boh, come normale io sbotto ad affrontare un mondo senza sbocco e lo sconto da pagare, sto botto mi fa male, l'impatto è letale, che sbatto mischiando in un tratto laterale di una strada demaniale che io non conosco, come faccio allora a uscire da sto brutto posto? Qua mi vogliono assopire ma mi sono nascosto dietro a un foglio con l'abiro, butto giù l'inchiostro, non mi sposto, mi puoi cadere addosso, vivo tempi ostili con lo stile di un colosso, indosso un'armatura in ferro grosso, così li posso sconfiggere, trafiggere, poi spingere in un fosso in grosso, inglobo tutto ciò che posso, le energie negative sono il pasto più goloso, le trasformo in positive rigirando il discorso, vibrazioni radioattive ogni volta che ho morso, lancinante sui denti questo freddo nevralgico, sta società è gelata come il ghiaccio dell'Artico, sanno darti compassione ma non sanno pensarti, no, e darti un lavoro serve per derubarti e boh. Tempi ostili, abbiamo il cuore di un iceberg, la mora di Trieste spinge il vento di Haider, e più l'odio di Bossi un morbo peggio d'Alzheimer, se non sei come in TV sembri sempre un outsider, tra modelli di belli televisivi e veline si ha spesso gli zimbelli tra i russi di chi ci opprime, sopprime e redime, sorrime e sublime, ma dimmi che fine ha fatto il sublime in questo regime concime. Tempi ostili, sono tempi in cui non prego, tempi a cui non credo, tempi in cui collego, tutto collego. Tempi ostili, tempi in cui non mi spiego, perché ancora non mi piego, perché ancora credo al vero e spero. Tempi ostili, sono tempi in cui non vedo, tempi in cui annego e nego pure ciò che vedo. Tempi ostili, tempi in cui non chiedo, tempi in cui pensieri chiuso dentro un buco nero sono. Tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili, tempi ostili, tempi freddi ostili.